Maremma, o che tempaccio si è trovato? Urca, non trovo più le chiavi! Passiamo dal bunker! Ah, finalmente a casa! Ormai gli alberi stanno già perdendo le foglie. Certo che quest'anno al mare ci siamo stati parecchio. Appunto! Per questo da adesso io entro in silenzio stampa. Non mi interessa un fico secco di niente, almeno fino al prossimo equinozio. Anzi, sapete che vi dico? Farò come gli orsi. Mi chiudo in camera mia e da ora vado in letargo. Svegliatemi a primavera! Bravo Giorgio, ottima idea! Grazie, grazie. So di essere un genio. Ma quale idea? Quella che ci hai appena fatto venire. Non promette niente di buono. Insomma, noi andiamo a fare un giro. Qualcuno di voi sa che ora passa il 22? Guarderemo l'orario. Andiamo! E non tornate fino alla prossima processione! Da quando sei diventato religioso? Fammi pensare. La prossima sarà quella dell'Immacolata. Guarda che per processione intendevo la processione degli equinozi, che si ripresenta ogni 25.000 anni. Il 22? Ma è l'autobus che porta al giardino. Chissà che cosa gli è venuto in mente a quei due. Ma che ce frega, ma che ce importa. Inutile preoccuparsi. Tanto se quelli combinano un guaio, ce lo faranno sapere prima i giornali e la televisione, oppure direttamente la magistratura. Chi sarà a quest'ora? Toh, ci hanno lasciato un volantino sotto la porta. Vediamo un po'. Lo sapevo, hanno rapito i gemelli. È già arrivata la prima richiesta di riscatto. Dunque, blocchiamo i conti correnti e mettiamo sotto controllo il telefono. E mi raccomando, neanche una parola con i rapitori. Così, dopo qualche giorno, i banditi si consegnano volontariamente alla polizia e patteggiano per l'ergastolo. Ma no, è una notizia. Sta facendo il giro del vicinato. Fa vedere. Ma insomma, che dice? La BSN, Biblioteca Storica Nazionale, sta chiudendo! Urca, è gravissimo! Dammi un po' il volantino! Ma se non sai neppure leggere! Lo dici tu! Quest'estate ce l'ho fatta finire un intero librino di Peppa Pig! E comunque, perché chiuderebbe? I continui tagli ai bilanci, quelli delle istituzioni culturali soprattutto, hanno reso ormai troppo costoso il mantenimento della struttura. E così il Ministero dei Beni Culturali ne ha ordinato la liquidazione. La biblioteca possiede libri rari e molto antichi, ma secondo la circolare ministeriale finiranno tutti all'asta. Così si andranno ad arricchire le collezioni di privati o peggio di istituzioni straniere. Disperderemo all'estero una bella parte del nostro patrimonio, perlomeno quello librario. Vabbè, tanto sono stranieri, che credi che ci capiscano a leggere in italiano? Ma non capisci? Sarebbe la più grande fuga di beni storici mai sperimentata in Italia. E il tutto con la firma del ministro. Il governo a breve approverà un decreto e allora sarà lo scioglimento dell'ente. E nella prossima finanziaria sta già contabilizzando gli introiti della vendita dei libri. È uno scandalo dare via così per poche lire i nostri libri. Per farne poi che di questi soldi? Comprarci una nuova auto blu? No! Però quelli sono il governo. Hanno i soldi, le armi e hanno pure le leggi per fare quello che gli pare. Noi invece sì e no facciamo un diploma in tre e non abbiamo un soldo bucato. Non parliamo poi delle armi, a meno che non contino quelle cinesi fatte di plastica. Su, su, che non tutto è perduto. Almeno stando a quello che dice qui, se riusciremo a raccogliere 300.000 firme, quelle che servono per presentare una legge, saremmo in grado di fermare, almeno per un po', le procedure di soppressione. Facciamolo subito allora! Aspetta, mica finisce qui. Vari gruppi parlamentari hanno confermato che se il numero delle firme raccolte oltre le 300.000 sarà sufficientemente alto, faranno pressione sul governo. Pressioni per ritirare ogni istanza di chiusura della biblioteca. Anzi, si impegneranno perché venga rifinanziata con fondi governativi. Non c'è tempo da perdere. Fammi un po' vedere se dice dove andare a firmare. Probabilmente dai carabinieri. Tutti quelli con l'obbligo di firma vanno da loro. Ah, ecco qui. Vai in municipio nel tuo comune di residenza e aderisci alla proposta di legge di iniziativa popolare B32467. Arrivo! Giorgio, ma perché tanta fretta? C'è scritto qui. È ora di dire basta alla svendita dei nostri beni culturali. È in gioco la nostra identità individuale e nazionale. Firma, perché godere tu e far godere ai tuoi figli della fruizione libera e gratuita del più inestimabile tesoro librario del paese sia sancito come un diritto inalienabile e non resti una banale questione contabile. Come si fa a non essere d'accordo? Giorgio, sai per caso dove si trova questa Biblioteca Storica Nazionale? Boh, sarà a Roma o a Firenze. Una volta in televisione mi sembra pure di aver visto un servizio. Biblioteca più, biblioteca meno, sono tutte uguali. Comunque chi se ne frega, i nostri libri sono in pericolo e a noi tocca salvarli. E che ne pensi del ministero che vende i libri all'asta? In quale casa d'aste? Hai mai sentito di un museo statale che, chiudendo, abbia venduto i suoi reperti su eBay e per decreto ministeriale? Sarà, ma ciò non toglie che sono dei farabutti. Ecco che cosa sono! Quei preziosissimi libri finiranno sulle bancarelle dei libri usati da fiera di paese e di qualche nazione dell'est. Non c'è più un minimo di amor proprio. E la legge è di iniziativa popolare? Ma sì, una volta ho firmato pure io per una legge contro la droga. Degli avvenenti ragazze che avevano un banchino fuori dall'ospedale mi convinsero a fare il cittadino modello. Di quella legge nemmeno l'ombra, ma in cambio mi svuotarono il conto corrente. Ecco, ecco come fanno i politici. Con la scusa della legge ti rubano i portafogli. Non ti sembra un luogo comune? E soprattutto, secondo l'articolo 71 della Costituzione, per presentare una legge bastano 50.000 firme, ma le firme non si presentano al governo, si presentano alla Cassazione. Pronto? Ah, siete voi! Vi metto in viva voce! Pronto ragazzi, abbiamo un problema! Ehi, ma che state facendo? Niente, una sorpresa! Il fatto è che abbiamo lasciato a casa la fiammosifica! Sì, è che siete lei, Fim! Oh, ogni volta che li prendevano prigionieri, cioè in ogni puntata, li rinchiudevano sempre in un qualche stanzino dove la fiamma ossidrica non mancava mai! Sentite, abbiamo mandato un Pony Express! Apritegli quando arriva! Incredibile! Una ne pensano e 100 ne fanno! Me ne occupo io! Un po' la conosco l'officina dei gemelli! Magari stai attento a quel grosso cilindro pieno di gel! Il mutante che hanno creato per la ricerca di scienze potrebbe svegliarsi! Arrivo, arrivo! Insomma, Giorgio, torniamo alla notizia! Convinto che non ci sia niente che non va! Qui non va nulla, ecco che c'è! Tasse, imposte, aliquote, scaglioni... E poi, per che cosa? Per vedere finire alla malora quello che invece sarebbe importante valorizzare? È colpa della politica, del governo, dell'Europa, della Germania, di Trump! Ma non colpa nostra, naturalmente! Noi siamo solo degli umili e onesti cittadini! Ho capito, ho capito! Tu non hai capito un accidente! Vediamo se a metterla così stavolta capisci. Questa che ti abbiamo letto è una bufala, è una storiella inventata. Anzi, tecnicamente è quello che si chiama una fake news, una notizia falsa. E sai che novità? I giornali di notizie false ne ribattono tutti i giorni. Prendiamo quella del milione di posti di lavoro, oppure della nipote di Mubarak. Vabbè, non le hanno dette i giornali, ma comunque chi le ha sparate è proprietario e padrone di giornali. Il che non so se è ancora più grave. Occio, occio, occio! Ferma, ferma, ferma il traffico! Ma dove crede di andare? Non vede? Pony Express! Grazie, a presto! E stia attento all'ossidrogeno! George una volta provò a saldare un bullone e oggi è ancora imputato per tentata strage. Insomma, Giorgio, adesso ti è chiaro il trucco? Ma di quale trucco vai cianciando? Di quello delle fake news, che non sono solo false notizie, sono un genere letterario a sé stante. Si comincia così: cambiamento, oppure ancora più forte, la minaccia del cambiamento. La biblioteca sta per chiudere. Cambiamento e minaccia del cambiamento insieme. Perché funziona? Perché il nostro cervello è attentissimo ai cambiamenti e ne ha paura. Poi viene la causa-effetto, cioè ogni azione comporta una reazione lineare. Taglio dei fondi, chiusura, liquidazione. Quelli fanno quello e allora succede quell'altro. Se tu fai questo, succede quello. Anche qui è una questione di cervello. Siamo portati a cercare collegamenti diretti ovunque in ogni cosa, anche quando non ci sono. Anzi, spesso i collegamenti ci sono, ma sono per noi illogici. Pensa a te che si sono inventati. Serve ora l'oltraggio morale. Nel nostro caso è il governo che svende un bene pubblico. Una cosa inaudita. Una cosa che non si fa. E perché la storia faccia presa, c'è un oltraggiatore, ma anche un oltraggiato. Nelle fake news, di solito, gli oltraggiati sono i lettori, perché si sentono dei fraudati di qualcosa. Fammi indovinare, il cervello un'altra volta! Esatto, succede lo stesso con il pettegolezzo. C'è un povero marito e una moglie infedele, oppure una buona madre e un figlio delinquente. È quel meccanismo che mette in moto il nostro bisogno di agire e di schierarsi dalla parte della ragione. O presunta tale. Il cattivo ce l'abbiamo già, il governo. A questo punto ecco creato l'eroe, il lettore. Ma anche qui c'è un trucco. Il cattivo è selfish, cioè egoico e egoista. Fa le cose per sé e ha i mezzi per farle. Il ministro, il decreto, la legge di bilancio. L'eroe invece è selfless, cioè ingenuo, pieno di debolezze e con scarse risorse. Siamo solo dei poveri cittadini. Poi il riscatto, da raggiungere attraverso una serie di obiettivi. Se saremo tanti, se anche tu parteciperai, se arriveremo a questo e a quello. E poi la legge popolare, le firme, i partiti che aspettano l'esito della raccolta per schierarsi. Bravo, cominci a capire. E ogni storiella si conclude con quello che si chiama The God Moment, il momento di Dio. Quel momento in cui l'eroe ha il mondo sotto controllo, il lieto fine, insomma. Un momento che ricerchiamo ovunque, perché il nostro cervello è programmato per trovare modi di tenere l'ambiente sotto controllo. Pensa a un'antilope mamma e il suo cucciolo, o a un maschio alfa con il suo branco. Sì, ma una storiella è e una storiella rimane. Anche il più stupido tra gli uomini è capace di compiere azioni che il più intelligente dei gorilla si sognerebbe anche pure di far finta di fare. Com'è allora che queste false news ci ingannano così facilmente? Perché non siamo capaci di resistere alle droghe. E sai chi è il più grande spacciatore della storia? No, chi? Luigi Manero, detto faccia d'angelo? Pablo Escobar? La famiglia Bush? Ma che? È il nostro cervello! Mentre leggiamo le fake news, il nostro cervello pompa sostanze nel sangue e sono sostanze molto potenti, come la dopamina, per esempio. La dopamina si sviluppa con azione e reazione. È la stessa droga delle slot machine e dei like di Facebook. E non dimentichiamoci dell'ossitocina. È quella droga che ci fa diventare generosi, ma anche pieni di fiducia e di empatia. La produciamo pensando all'oltraggiato ed è quella che ci fa parteggiare per l'eroe. E arriva poi l'endorfina con il God Moment, la sostanza del godimento. La stessa che si prova vincendo qualche spicciolo alle macchinette o ricevendo i like su Facebook. Oppure, più di tutti, facendo un'altra cosa. Ma per quello vi manca ancora qualche anno. Non dimenticarlo, l'uomo è un drogato di natura. Caffè, zucchero, cioccolata, ma anche THC, eroina, cocaina, alcol, tabacco e perfino la carne. Anche la carne è una droga. Anzi, meglio, sono il prezzo della droga. Perché tutte queste sostanze le diamo al cervello e lui ci produce le droghe che preferiamo, e cioè gli ormoni, che sono potentissimi. Le più potenti sostanze allucinogene che si trovino in natura. Altro che erba legale! Siamo tornati! Il 22 non arrivava mai! E dal giardino è lunga tornare a casa! E che diavolo siete andati a fare al giardino? Ti abbiamo fatto un regalo! Poi dici che ti trattiamo male! Un regalo? Ma che carini! E dov'è? Qua fuori? Ma è un orso! È anche molto assonnato! E per forza, è quasi ora di andare in ibernazione! Tra l'altro, gli orsi insonnoliti sono anche piuttosto aggressivi! Senti come muglia! Ma dico, voi due, siete impazziti! Ma come vi è saltato in mente di portare un orso in casa? E poi, diamine, ma che cavolo di regalo sarebbe questo? Hai detto che saresti andato in letargo come gli orsi! E noi te l'abbiamo portato uno! È già mezzo addormentato! Almeno vi farete compagnia! Vive da solo nella sua gabbia! Gabbia? Quale gabbia? Ma non andavate in autobus a giocare in un parco pubblico? Alessandro, ma che mi hai raccontato? La verità, e cioè che il 22 va al giardino, ma non l'orto botanico, il giardino zoologico! Ho capito, ho capito. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. A noi due, palla di pelo! Geronimo! Non crederai di lasciarmi qui dentro, vero? Liberami subito! Guarda che vengo lì! Ehi, torna subito indietro! Torna subito indietro, ho detto! Ecco, se n'è andato, e adesso? Maledetto orso, almeno poteva lasciarmi la pelliccia!